paisa. Lunedì 26 gennaio, contro radio, chiaramente, siete sulle frequenze contro radio. Yeah. E questo è Ragnar Paisa. Sono le 21:31. Preciso. 0557399. 0557399933 è il nostro numero di telefono. info.ragnarpaisa@gmail.com è la nostra mail. Ragnar Paisa in onda tutti i lunedì su Controradio, sempre e comunque. E comunque. Se volete sapere un po' di noi, per chi non ci conoscesse, può andare su ragnarpaisa.net e vi fate un'idea. Io non starei a perdere tanto tempo, Biga è già in posizione, parte la sua selezione e noi ci sentiamo fra poco. Vai.

Ragnar Paisa. Como gaviota que al atardecer sobre la roca de la soledad, cansada y triste, sin amor, sin fe, sus alas rotas de tanto volar, hundí en las olas del misterio azul, como las ondas del inmenso mar. Y aquella noche se formó una cruz sobre la roca de la soledad. Como gaviota que al atardecer, enferma y triste de tanto volar, sin esperanza, sin amor, sin fe, por compañera la soledad. Así la he visto ayer, sufriendo las torturas de la adversidad. Mujer, pobre mujer, gaviota enferma y triste, para ti no hay piedad. Soledad, cansada y triste, sin amor, sin fe, sus alas rotas de tanto volar, hundí en las olas del misterio azul, como las ondas del inmenso mar. Y aquella noche se formó una cruz sobre la roca de la soledad. Como gaviota que al atardecer, enferma y triste de tanto volar, eccolo. Eccolo. Un po' di 45 colombiani. Il colombiano. Poi bolero. Alla bolero. Fine, così, giusto? Il boe, un boero, lo potevi portare un boero, però. Ecco, è passata dai bagni delle signore. È perfetto. Chiaro. E poi in pole position. Eccoci. Senti. Giovedì. Allora, 29 prima di dire gennaio. Giovedì, ieri Brother Green e Yes We Jam hanno spaccato. Infatti, noi vedi, è una roba, siccome si fa chiaramente oggi è lunedì, si fa la trasmissione lunedì sera e alla domenica, noi non ci si pensa mai alle serate della domenica e spesso e volentieri passa di mente di ricordare che la serata Yes We Jam. Però è una serata che ne vale veramente la pena, una serata curata da Mille Lemmy. E insomma, trattasi di musica dal vivo con jazzisti del posto e non, esatto, band di Mille Lemmy che vabbè poi comunque non ha sempre i soliti strumentisti, no, però comunque trattasi di base di musica là dal vivo strumentale con Mille Lemmy, che sappiamo che è un caparbissimo rapper locale, mm-hmm, che oltretutto è praticamente investe il ruolo di presentatore televisivo. Eh sì, Is your next Corrado. Sì, Mille Lemmy, quindi freestyle, rap, macchinette, showman, anchorman. E appunto ci eravamo scordati di dirvi che ieri c'era Brother Green da Pisa assieme a Herrera, quindi Brother Green è la band di Funks ed altri Bombers di Pisa, più Herrera che comunque è un beatmaker che se ci seguite ben conoscete. Quindi detto questo, ricordatevi che la domenica al Jazz Club di Borgo Pinti c'è sempre Yes We Jam. Giovedì 29 gennaio al NOF come tutti i giovedì ci sarà il China Dance, mm-hmm, che i cui host sono Stefano Tamborrini alla batteria e Francesco Cangi al trombone, che sono altri due strumentisti che spesso gravitano nel circuito Yes We Jam e insomma della notte jazzista fiorentina. E ci sarà anche sottoscritto giovedì, quindi giradischi, batteria e fiati. Il NOF in Borgo San Frediano. Borgo San Frediano. Poi passiamo a venerdì 30, che vede una doppia serata Latex Plus all'Odeon, quindi Latex Plus on Theater, con Niños do Brasil, Lorenzo Segni e Pons, che presenta il suo disco all'Odeon. Quindi saranno tre live, giusto? Tre live. Poi dopo la serata si sposta al Tabasco con... Con il sottoscritto, set solo brasiliano, il buon Mirko Casalini, il buon Baker Boy e Danilo Lenzi in sala fumatori. E presentando il biglietto d'ingresso dell'Odeon si entra gratuitamente al Tabasco. Sì, tutti con il polmone d'acciaio, ovvio. È chiaro. Ormai ce l'ho difesa. Il venerdì 30, per chi ama le vibrazioni reggae, alla Flog ci saranno Big Youth e Uroy, che insomma comunque sono dei gran bravi ragazzi. Comunque magari dopo questa serata ve la spiega meglio Tommy. Tommy, che è già in postazione, che lascerei andare con la sua selezione, eh? E noi ci sentiamo tra poco. Bom. Thank you.

Eccoci. Eccoli. Questa trasmissione, a parte gli voglio bene perché si fa da una vita, ma poi mi piace perché, capito, si passa così dalla roba ungherese a una segnalazione di una serata reggae, no? Così. Fantastico. No, non so se avete già accennato prima. Si è semplicemente accennato la serata. Venerdì, Big Youth e Euro, insomma, per chi segue minimamente il reggae, praticamente i due DJ più importanti, che quelli proprio i capostipite del toasting giamaicano. Euro era già venuto anno scorso, un paio d'anni fa, adesso non mi ricordo, comunque non troppo tempo fa. Big Youth non so se è mai venuto a Firenze, se è venuto non l'ho visto. Comunque, insomma, è una serata da non perdere per chi gli piace il reggae. Ok, facciamo andare Duccio con i suoi prossimi 15 minuti, ci sentiamo tra poco. Life, I've been around Crips and Bloods, Grips and Slugs, the trick of happiest thugs, claiming the slums and all the hoods that they from. Too much of the sum, got to twist it up, blinded in a rat race, cash straight to fake, till Jake the snake's too late, my eyes dilate, and I can tell them how he's straight, coming at me sideways, get straightened up, don't deflate your luck, give me the bucks, my cash rate going up, looking back in the days, the maze, cause the lab rat that made it out the maze, still feel caged and raged, don't use the underground railroad like a runaway slave, broke off the chain, still run way fresh, got you on that mental plane with my project jet, I'm two steps above that nimbus cloud, my limits is low when I'm smoking on the loud, focus in the now when the lotus is around, it's the Brooklyn sound, the profound, Biggie would be proud about, but I don't need the vet to even shout me out, punchline, pack a pocket out, they can't box me out. Mother sucker. Microphone checker, checker, checker, checker, checker. Yeah, yeah, yeah. Motherfucking microphone checker. Keep that grip tight like my Smith and Wesson. I put the mic which nigga tryna turn up. Hit you with the hurtful fucking truth like Sojourner. Motherfucking microphone eater. Spitting hot shit, hit your dome with the heater. Wouldn't wanna be a dish lyrical fajitas. Got dragon balls like my name was Vegeta. Motherfucking super duper swanking. Niggas still hating pigs, running for the bacon. Take them to the slaughterhouse. Said we bout to order out. Tell them we the badass. Motherfuckers that they heard about. Yes, I guess the word is out. We coming for the top dollar. Top rock baller. Since I popped my collar. Niggas say they hit us, they ain't never shot nada. Me, I'd rather not snitch up on my own problems. Cause I'm a microphone killer. Especially when my head is gone off that liquor. Specially educated, heavily medicated. Give me that beat and I put you next to Dilla. My nigga. Flow sweeter than vanilla. Tell these haters be the Kent Jackson Thriller. Yeah. Opportunity be knocking. Little motherfucking opportunity be knocking. God let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek. Tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby. All my life I was a fuck up. Now I pull the truck up. Same bitch stuck up. Now she wanna suck us. See me hanging out the window screaming, what? No more tough luck. A different glove is where I'm cut from. Baby, oh my lord. The cops chasing Bronson in the all white Ford. Shit, I'm on that all night tour. Bitch, I'm alright, but I'm off that roar. I'm in the road, dancing sauce on the top floor. You would swear I'm Puerto Rican, but I'm not, Lord. Hot hoes, every city that we go singing. Head side, killing what they know. All I do is eat oysters and speak six languages in three voices. It's Adriatic summers on the sailboat. Don't even try to call, I'm not available for nothing. Searching, drawing with. levitates jam for me. Eccoci. Ho gli appunti? Dammi gli appunti. Vai. Vabbè, che poi c'è giusto da purtroppo dire della morte di Demis Roussos, che era cantante degli Aphrodite Child, gruppo di progressive rock greco, e quindi insomma va detto. L'uscita, vabbè, di Before the S di Joy Bass, del quale ho suonato un po' di pezzi. Before the S non è male. Before the S, infatti. E soprattutto dell'uscita del disco della batteria, che è un gruppo di super musicisti, tutti romani. È uscito per Penny Record. La batteria sono Emanuele Bultrini, Stefano Vicarelli e David Nerattini alla batteria, certo. e Paolo Pecorelli al basso, che è anche il vecchio proprietario del mio MPC. Quindi insomma, andatevelo assolutamente a cercare. Per adesso è uscito il CD, presto uscirà il vinile. Il disco della batteria è una roba molto soundtrack, ma più che soundtrack, guarda tanto le sonorizzazioni. E quindi è tutto, insomma, è tutto un sogno, tutto un viaggio suo. Quindi la batteria su Penny Record, andate assolutamente a ascoltarvelo e ad acquistarlo. Lasciamo andare Colossius, che è l'ultimo di noi, e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao. We'll be right back. Control radio.